Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un caro saluto a Gianluca Codognato. Un saluto a te, Francesco, e agli ascoltatori. Allora, Gianluca, parliamo di bollette definite 2.0, la nuova generazione di bollette che tanto dovrebbero spiegarci in più, almeno questa è l'intenzione, e poi vai a sfogliarle, a capirle, e c'è una seria difficoltà nel comprendere alla fine che cosa stiamo pagando. Parliamo di bollette proprio. Sì, Francesco, in particolare della bolletta 2.0, diciamo, forse non tutti sanno di cosa si tratta. In realtà chi sta ricevendo le bollette del gas e dell'energia elettrica dal 2016 in poi forse si è accorto che qualcosa è cambiato appunto nella fattura, ed appunto è cambiato perché è stata introdotta dall'autorità dell'energia e del gas questa nuova forma di bolletta che teoricamente dovrebbe essere più facile da leggere e quindi più interpretabile da parte dei consumatori, quindi degli utenti. In realtà devo dire che è complessa da leggere tanto quanto quelle precedenti, forse appunto ha questo piccolo vantaggio di avere un grafico a torta nel quale tra l'altro non sono specificate neanche le percentuali, però devo dire che ci rendiamo conto dalle tante persone che si rivolgono a noi per chiederci appunto spiegazioni su alcune voci e sugli importi riferiti a quelle voci, ci rendiamo conto che effettivamente prendendo in mano le voci contenute nella bolletta, insomma, è molto difficile da capirle, quantomeno a livello intuitivo. Francesco, cerchiamo di spiegarle magari facendo un piccolo riassunto, facendo un po' di chiarezza, se riusciamo, perché in realtà il tema è complesso, anche in vista dell'argomento di cui abbiamo parlato l'altra volta, ovvero dell'avvento del mercato libero e della cessazione del mercato a maggior tutela. Sì. Allora, quando ci troviamo di fronte alla bolletta, sono sostanzialmente quattro le voci che indicano la nostra spesa e specificano il perché abbiamo quell'importo richiesto dal nostro fornitore. Allora, la prima voce che troviamo e che dobbiamo subito tradurre in realtà è la spesa per la materia e per l'energia. Ecco, diciamo che questa è la voce sostanzialmente più dipendente dal venditore, perché è più legata ai nostri consumi. Questa voce è sostanzialmente suddivisa in due quote, una quota è fissa ed è riservata sostanzialmente alla commercializzazione del prodotto, e un'altra quota è legata proprio ai nostri consumi ed è riferita alla produzione, quindi sostanzialmente alla fornitura dell'energia, ed è legata ovviamente ai nostri consumi. Quindi noi sappiamo che questa quota, che è una quota, ripeto, variabile, deriva dalla moltiplicazione tra il kilowatt che abbiamo consumato e il costo al kilowatt. Siamo, cioè, molto attenti, chiaramente chi ci offre un costo migliore al kilowatt è quello che sicuramente potrà, anzi quasi sicuramente potrà offrirci le tariffe migliori. Ora, Francesco, la seconda voce è veramente stato un rebus enorme, e devo dire che tante persone sono rivolte a noi, perché è la spesa per il trasporto e la gestione del contatore. Ora io mi riferisco, in questo caso ho parlato di kilowatt, mi sto riferendo alla bolletta di energia elettrica, ma lo stesso discorso può valere per la bolletta del gas. Continuiamo con l'esempio dell'energia elettrica. Tanta gente, quando ha visto questa voce qua, si è chiesta se per caso gli sia stato cambiato il contatore, perché questo viene in mente. In realtà non è assolutamente così. In realtà appunto la voce si riferisce alla spesa per il trasporto dell'energia elettrica, che non viene specificato, e alla gestione del contatore stesso. Quindi anche qua ci sono tre quote, anzi, una fissa, una quota potenza che là dipende anche là dai kilowatt consumati, e una quota energia, e anche questa dipende appunto dai nostri kilowatt consumati. Però diciamo che questa voce, più che dipendere dal nostro fornitore, dipende fondamentalmente dal distributore, che chiaramente dà la fattura al venditore per quanto riguarda la sua gestione delle reti per distribuire l'energia elettrica, in questo caso quindi centrali idroelettriche eccetera, e dopo chiaramente il nostro fornitore ci caricherà in bolletta appunto questi costi. Poi altra voce che devo dire, scusa, sorrido perché effettivamente in tanti, diciamo tutti non sanno di cosa si tratta, ed è la spesa per gli oneri di sistema. Sì. E chiariamo che è una spesa che esisteva già anche nelle altre bollette, e sostanzialmente è un costo fisso che ci viene addebitato in bolletta, attorno ai 6 euro a bimestre, ci viene addebitato in bolletta appunto per finanziare delle attività di interesse generale, quindi le prese elettriche minore, incentivi alle fonti rinnovabili, gli oneri nucleari, agevolazioni per il settore ferroviario, insomma diciamo che diamo il nostro contributo anche in bolletta per certe attività, ecco, che vengono definite di carattere generale. Poi ovviamente ci sono le imposte, questo sappiamo tutti cosa sono, e quando troviamo la voce imposte stiamo parlando di imposta di consumo, che è la classica accisa, e chiaramente l'imposta sul valore aggiunto, quindi la nostra IVA. Possiamo trovare nelle bollette, ma questo dipende, anche dei ricalcoli, il bonus sociale se ne abbiamo diritto e naturalmente il canone TV quando è fissato, insomma, il suo pagamento. Francesco, come vedi, non è una bolletta di facile lettura, però veramente invitiamo gli utenti a leggere comunque, cercare di valutare comunque le varie voci, perché se c'è qualcosa che non va, ovviamente bisogna contestare la bolletta. Certo, e come dicevamo, ci sarà questa liberalizzazione dell'energia elettrica, quindi dovremo per forza dare un occhio alle nostre bollette per cercare poi la cosa che più ci conviene. Esatto, se non sarà facile, dal 2018 dovremo scegliere tra varie offerte. Ecco, e stiamo subito attenti che qua appunto la voce fondamentale, che la spesa per la materia energia, è là, appunto, come dicevo, che il venditore può giocarsela anche per appunto fare delle offerte migliori dei concorrenti. Certo, e poi a seconda anche dell'utilizzazione ci conviene scegliere la tariffa bioraria o quella monoraria, a seconda anche di quanto viviamo nella nostra casa oppure no, perché insomma anche questo ovviamente va a influire sul totale della spesa della nostra energia elettrica. Beh, le bollette 2.0, quindi, anche se apparentemente aiutano a capire meglio le bollette, ma vanno lette con molta attenzione, e se per caso non capite qualcosa, ci sono proprio le associazioni di difesa consumatore che servono a questo, per aiutarci a comprenderle. Ecco, spuntiamo la trasparenza assoluta e ce lo auguriamo. Grazie Gianluca Codognato dell'Adico, ci risentiamo tra qualche giorno. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.